Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette, otto minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Chiaramente alcuni di voi avranno già ascoltato l'intervista di Oscar Giannino all'ANCE, ma chiaramente ci occuperemo di appalti, non tanto di grandi opere, ma soprattutto di ANAS da un lato e di edilizia scolastica dall'altro, perché purtroppo è l'argomento di attualità, nel senso che i nostri GR24 vi hanno già ricordato di cosa è capitato a Ostuni, a Brindisi, quando è crollato durante le lezioni il soffitto di un'aula della scuola elementare. In realtà il caso, ahimè, drammatico, la scuola è frequentata da 700 bambini, ci porta a cercare di capire che cosa sta succedendo anche nel documento economico finanziario, perché vari giornali avevano fatto notare che nel piano di razionalizzazione delle opere infrastrutturali, quello che ha tagliato le grandi opere, per capirci, erano scomparsi 498, quindi 500 milioni di euro dedicati proprio all'edilizia scolastica. Non è il caso di Ostuni, nel senso che la scuola era stata ristrutturata e aveva riaperto i cancelli il 7 gennaio. Però è il caso in generale di quanto ricordo, per esempio, Cittadinanza Attiva: 4 edifici su 10 hanno manutenzione carente, parliamo delle scuole italiane, il 70% presenta lesioni strutturali. E ancora, più della metà delle scuole in zona a rischio sismico, una su quattro a rischio idrogeologico. Insomma, un paese civile dà la priorità a queste cose. L'ANAS, che alcuni chiamano ANANAS, non è ANANAS, è ANAS. È vero che Ciucci poco fa ha annunciato che lascerà il mandato nella prossima assemblea, però il tema è quello che è successo anche in Sicilia di nuovo, e qualcuno di voi avrà visto i giornali nel fine settimana, e quindi c'è stata lo scorso 3 marzo la campata stradale del Viadotto Italia sulla Salerno-Reggio Calabria, il 10 aprile il cedimento del pilone dell'autostrada Palermo-Catania tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli, di cui parlammo in diretta con lo stesso Ciucci. A Capodanno 2015 è crollato il viadotto Scorciavacche sulla statale Palermo-Agrigento, inaugurato quello famoso, l'accusa è di aver fatto i lavori in fretta per prendersi il bonus, inaugurato 7 giorni prima. E appunto ci sono altri elementi, perché per esempio la galleria La Franca sulla Foligno Civitanova, ieri la trasmissione di Rai 3 Report se n'è occupata, dove addirittura sarebbe stata costruita con uno spessore di cemento di 12/20 cm contro i 50-60 abituali. Insomma, sono un insieme di casi che dicono che per essere buoni qualcosa all'ANAS non sta funzionando. Noi abbiamo fatto anche la lista una volta dei dirigenti dell'ANAS che, a differenza di quanto ci disse Ciucci in diretta 2 settimane fa, risultavano invece nelle loro posizioni, nei loro ruoli da anni, 7 anni, 8 anni, 10 anni, e abbiamo sempre detto: attenzione, vanno fatti girare. Quando è a che fare con gli appalti pubblici, quando è a che fare, purtroppo sappiamo che in questo paese la corruzione si concentra soprattutto sugli appalti pubblici, sui lavori, sulle opere, e allora fateli girare. Comunque ne parleremo in apertura. Dopodiché, come sempre, la borsa più 0,44% Milano, a differenza di Francoforte che perde lo 0,26%, Parigi guadagna lo 0,15%, Londra perde lo 0,40%, Dow Jones più 0,14%, borse quindi molto miste oggi. A Milano UX guadagna il 5,50%, Mediolanum il 3, Saipem il 2,80%, A2A il 2,30% come Mediaset, Moncler l'1,90%, Telecom l'1,70%, Azimut l'1,60% come Terna. Perde il Monte dei Paschi il 2,20%, Tenaris lo 0,80% come CNH Industrial e UbiBanca, lo 0,70% lo cede Tods e lo 0,60% Pirelli. Euro a quota 1,05. Parleremo anche del documento economico-finanziario del governo, non per elogiarlo, come immagina un ascoltatore prima ancora che inizi a parlare, ma per criticare, se così vogliamo dire, l'utilizzo del termine tesoretto. Cioè, molto banalmente, un governo che deve trovare 16 miliardi per non far scattare le clausole di salvaguardia a gennaio del 2016, che vuol dire aumento dell'IVA per 16 miliardi o delle accise, che ne ha individuati 10 con cui dovrebbe scongiurare questo aumento di tagli, tra cui alle regioni, ai comuni e altre della spending review, e sono sempre un po'... non dico aleatori, ma difficile, non è mai successo che i tagli previsti si siano effettivamente realizzati, magari sarà la volta buona. Però dicevo, in queste condizioni che senso ha citare 2 miliardi, 1,6, 2 miliardi di tesoretto quando hai delle impellenze? Crea molti appetiti, crea delle illusioni, sarà utile alla propaganda, ma solo a questa, perché mi sembra che la situazione delle finanze pubbliche siano tali per cui prima di dire che c'è un tesoretto iniziamo a scongiurare l'aumento dell'IVA dal 1 gennaio ed essere sicuri che lo scongiuriamo, che quella sarebbe una bastonata ulteriore ai consumi interni, poi vediamo il resto. E devo dire che al di là del tesoretto ci sono anche altri elementi che ci hanno lasciato un po' perplessi, e ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve. Allora, le altre notizie, partiamo come sempre dall'economia internazionale. Per quello che riguarda la Cina, c'è un dato oggi non bello sul commercio estero a marzo in Cina, -13,5% nel mese di marzo, nei primi tre mesi -6%. Sul fronte europeo invece il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis, prima di incontrare il ministro Padoan, ha detto: la Commissione europea apprezza che lo sforzo per le riforme in Italia abbia guadagnato velocità e dà il benvenuto all'impegno ad un'agenda di riforme dettagliata. E poi dice: i fondi del bonus indicati dal governo nel documento economico finanziario, 1,6 miliardi, il famoso tesoretto, possono essere usati per alcuni interventi prioritari, la cosa importante è che siano rispettati gli obiettivi di risanamento. Vabbè. Se l'Italia rispetta i vincoli può usare il tesoretto. Il nostro dubbio forte è che quel tesoretto non ci sia come margini, non che non ci sia tecnicamente, ma con le poste in gioco, in alcuni casi aleatorie, in alcuni casi a rischio, in alcuni casi come atto di fede, forse è meglio non dire che c'è e casomai coprire eventuali entrate più basse del previsto. Penso i risparmi della spending review, penso le entrate dovute alla lotta all'evasione fiscale. Allora, da dove arriva il tesoretto? Il tesoretto arriva dal fatto che nel documento economico finanziario si profila tra l'altro anche un nuovo rinvio del rinnovo del contratto per i dipendenti pubblici. Se la spesa per gli stipendi della pubblica amministrazione è in calo del 10% del PIL, sostanzialmente -10% nel 2014, -9% nel 2019, ci sarà un taglio di circa 13 miliardi di euro su 164 miliardi di spesa, questo in 4 anni. Anche gli sgravi fiscali riceveranno una stretta con un risparmio stimato in 2,4 miliardi. E poi è partita, ma ne parleremo, l'idea che il bonus vada alle fasce più deboli, lo ha detto il ministro dell'economia al TG1, dicendo appunto ieri l'ha detto, destinare il bonus a 1,6 miliardi alle fasce più deboli rappresenta un'ipotesi importante, però insomma ripeto, cautela. Anche perché segnalo che sul Sole 24 Ore di sabato scorso viene fatto notare come nel decreto legislativo sulla stabilizzazione dei precari sia spuntata una clausola di salvaguardia al limite del surreale. Allora, voi sapete che dal 1 gennaio ci sono i fondi perché chi assume dal 1 gennaio a tempo indeterminato fino al 30 dicembre non pagherà i contributi per 3 anni. Nulla c'entra questo col Jobs Act. Però se i fondi per le decontribuzioni, questi che ho appena citato, dei contratti a tempo indeterminato, si rivelassero insufficienti, verrebbero coperti da un aumento dei contributi previdenziali a carico delle aziende. Ma fatemi capire, se mancano i soldi, la copertura per non far pagare i contributi alle aziende che assumono a tempo indeterminato e farli pagare, diciamo, allo Stato come incentivo all'occupazione, come si recuperano questi soldi facendo pagare più contributi alle aziende? Immagino a quel punto su chi già è assunto, ma mi sembra una follia tutto qua. Il ministro del lavoro Poletti ha detto no, smonteremo la norma, la clausola del bonus vale 16 milioni, la toglieremo, la responsabilità è mia, è una misura che si introduce normalmente. Comunque insomma, Poletti è già corso ai ripari, però... Ancora due dati prima di passare al tema dell'edilizia a cavallo tra edilizia scolastica da un lato, ma soprattutto anche i lavori dell'ANAS. Allora, dicevo, per quello che riguarda la produzione industriale, oggi il dato dell'Istat cresce a febbraio dello 0,6%, meno 0,2% rispetto a un anno prima, in crescita le voci energia e beni strumentali. Il centro studi Confindustria stima a marzo una produzione industriale a più 0,1 e sostanzialmente secondo quanto segnala il centro studi Confindustria il minimo della recessione sarebbe stato toccato lo scorso ottobre e una lenta ripresa sarebbe iniziata già nel corso dell'autunno. Non male la battuta, quale dei due ciucci si dimette? Perché la vicenda per cui invitiamo il presidente amministrativo dell'ANAS era la famosa il bonus da 700.000 euro che ricevette per non avere avvisato lo stesso Ciucci come direttore generale dell'ANAS che lo avrebbe licenziato, quindi mancato preavviso. In realtà Ciucci smentì che ci fosse mancato preavviso, ma non smentì, diciamo, la buona uscita equiparata al mancato preavviso. Partiamo allora con l'emergenza scolastica, al di là ahimè del crollo della scuola nel Brindisino. Ripeto, la scuola in questione aveva riaperto i cancelli il 7 gennaio dopo un periodo di chiusura proprio per i lavori di ristrutturazione. Qui la scuola Pessina di Ustuni, qui vogliamo anche i nomi dell'assessore, per carità, ma anche delle ditte che hanno costruito. E lo dico al mondo, alla parte che è maggioritaria sana del mondo dell'impresa dell'edilizia, che si associa anche nel Lance, dovete fare ancora più attenzione. Se c'è un politico, diciamo, che si fa corrompere, c'è un'azienda che lo corrompe, non è possibile che la maggior parte degli scandali in questo paese si concentri sempre sulle opere dell'edilizia quando in mezzo c'è il denaro pubblico. Comunque, 349-238-6666 per gli sms, la pagina di Focus Economia su Radio 24. Partiamo appunto da, diciamo, opere dell'ANAS, oltre che, diciamo, i soldi spariti nel DEF per l'edilizia scolastica. Partiamo dalla cronaca, ahimè, il crollo della scuola. è il fatto che su questo, devo dire la verità, ce ne occuperemo nella seconda ora. Io non ho ancora capito se poi questi 498 milioni siano o no spariti nel documento economico finanziario, quelli che erano destinati all'edilizia scolastica. E sarebbe importante anche in questo caso, visto che il governo ha una grossa rapidità nel twittare, che ci twittasse un qualcosa, cioè no, li abbiamo tenuti, alcuni giornali hanno scritto balle, ci sono i 498 milioni, anche perché il piano di edilizia scolastico del governo è composto da tre filoni: hashtag scuole nuove, hashtag scuole sicure e hashtag scuole belle. Io aggiungo hashtag dove sono i soldi. Coinvolgeva complessivamente 21.230 interventi in edifici scolastici per investimenti pari a 1 miliardo di euro. Tra l'altro 4 milioni di studenti e una scuola italiana su due erano coinvolti in questo progetto, che avrebbe dovuto portare nel biennio 2014-2015, siamo già nel biennio e stiamo finendo, non dico finendo, ma abbiamo superato il giro di boa del biennio, a demolire gli istituti fatiscenti e a costruirne di nuovi, fare interventi di manutenzione ordinaria, tinteggiatura, efficientamento energetico e realizzare ristrutturazioni più importanti, compresa la rimozione dell'amianto. Allora, tra l'altro, su questo, ripeto, non si può scherzare con la pelle di nessuno, men che meno degli studenti. Non può essere un elemento di campagna elettorale la qualità dei nostri edifici. Ora, andando poi nel concreto, perché io ho chiesto, facciamo anche i nomi. Allora, quello che state per sentire è la voce di Paolo Pinna, assessore ai lavori pubblici di Ostuni nel dicembre del 2014. Dicembre 2014, quindi stiamo parlando di 4 mesi fa. Assessore Pinna, il quale nel consegnare la scuola, dopo lavori di ristrutturazione durati 4 anni, l'assessore dichiarava le seguenti parole. Per quanto riguarda la scuola, comunque adesso è completamente funzionante, non ha nessuna problema di sorta, tranne qualche piccolo aggiustamento che comunque in corso d'opera verrà fatto, senza alcun però aggravio nella conduzione dell'attività didattica e sicuramente anche per gli stessi bambini che usufruiscono di questa struttura. La scuola è stata riconsegnata nelle vacanze di Natale dopo ben 4 anni di lavori e diciamo un raddoppio anche dei costi, senza voler speculare su questo. Io personalmente, che ho assunto a giugno scorso, mi sono sempre lagnato per protrarsi oltremodo dei lavori, però trattandosi di un grossissimo istituto, uno degli storici istituti di Ostuni, insomma questo mi lascia un po' perplesso, tant'è che la mia azione immediata sarà quella di istituire una commissione super partes, o meglio terza rispetto al mio ufficio tecnico, che negli ultimi 4 anni ha diretto e controllato i lavori. 4 anni di lavori, riconsegnata a Natale, crolla un pezzo di intonaco. A chi fa capo la scuola? Cioè una scuola, un istituto comunale? È comunale, sì. È comunale, e quindi siete voi le persone di riferimento? Ripeto, non voglio sollevare polemiche, mi fa piacere che non ci siano stati ulteriori problemi ai bambini, perché viene prima innanzitutto la loro incolumità. Adesso ho già firmato l'ordinanza per la sospensione a tempo indeterminato delle lezioni e procederemo alla verifica di tutto l'istituto per far sì che si scongiurasse qualsiasi ripetizione di un episodio analogo. Allora, avete ascoltato in ordine: prima l'assessore Paolo Pinna, assessore ai lavori pubblici di Ostuni, che nel dicembre 2014, dopo 4 anni di lavori e costi raddoppiati, diceva: ora la scuola è completamente funzionante, ci sarà qualche dettaglio, qualche variante in corso, sì, la variante che il tetto è caduto. E quindi mi immagino le scuse dell'assessore, mi immagino anche le sue dimissioni, perché io ho capito che i lavori non li ha fatti lui, ma l'assessore ai lavori pubblici è lui, Austuni. E quindi, anche solo per non aver capito, per non aver seguito, per non aver chiamato in causa la ditta che adesso stiamo cercando, che ha fatto sti lavori, Austuni, perché così facciamo i nomi e cognomi anche di chi fa i lavori in 4 anni con un raddoppio di costi e poi crollano i tetti dopo 4 anni. Però mi dispiace, assessore, lei ha un ruolo politico, si deve dimettere. Al sindaco Gianfranco Coppola lo chieda lei alla sua assessore di dimettersi, onestamente. Ho capito, sindaco, che lei dice l'importante è la salute del bambino, perché è andata hashtag di fortuna anche stavolta, ok? Per cui, se tutto va bene, vedremo come staranno poi alla fine i bambini, ma non si può avere questa cialtroneria, che è una cialtroneria. Dimettetevi in blocco, non me ne frega nulla, ok? E poi i bambini adesso andranno a fare lezioni a scuola a casa dell'assessore Pinna. Paolo Pinna, ci chiami, l'abbiamo cercato, non risponde. E vabbè, e questo è fronte scuola, ma questo è il paese, eh? Allora, invece oggi Pietro Ciucci ha incontrato il ministro delle Infrastrutture Graziano Del Rio, comunicandogli la sua intenzione di rimettere l'incarico di consigliere presidente di ANAS. Da quanti anni è Ciucci lì? 13 anni? 14... 9 anni all'ANAS, scusatemi, stavo facendo confusione con il suo 9 anni all'ANAS. Approverà il bilancio 2014 nell'assemblea che verrà convocata a metà maggio. Ieri il ministro Del Rio: con noi finisce l'era delle grandi opere, si torna a una concezione moderna dove le opere sono anche la lotta al dissesto idrogeologico, la mobilità urbana, le scuole. Sì, vabbè, fatelo. E il tema vero è uscire dalla logica delle emergenze, delle procedure straordinarie, rientrare nella normalità. Ecco, la nostra sarà una rivoluzione della normalità. Non abbiamo dubbi per non credere al ministro, ma fatelo. Adesso c'è la Open Cantieri, ma non potete chiamarla Cantieri Aperti, questo inglesismo del governo. Va bene, metteremo tutto quanto online. È un'indicazione di marcia, diciamo al paese e all'Europa quali sono le opere che riteniamo strategiche e quali saranno completate. E va. Il DEF contiene una ridefinizione delle grandi opere, con un dimezzamento di quelle strategiche e la riduzione degli stanziamenti da 76 a 69 miliardi. Alcune sono confermate, 30 grandi progetti, MOSE, linee ferroviarie, tra cui la Torino-Lione, i collegamenti stradali e autostradali, penalizzati porti, dighe e acquedotti. E di questo parleremo. Ringrazio per averci raggiunto in collegamento con il professor Marco Ponti, che insegna economia e trasporti al Politecnico di Milano. Buonasera, professore. Buonasera a voi. A me dispiace invitarla solo quando ci sono degli elementi negativi e drammatici. Mi riferisco alla scuola. Vabbè, è noto che la buona notizia non è una notizia. Beh, no, cerchiamo anche di trovare le buone notizie. C'è una logica in questo. Però le chiedo ancora qualche minuto di pazienza, perché ho il metodo e la pubblicità. E poi vorrei capire, da un lato, la sua valutazione sulla rimodulazione delle grandi opere, che fu, diciamo, il grande cavallo di battaglia del governo di Berlusconi, il general contractor. Però l'altra parte corsa dietro a una velocità supersonica. Sì, è vero, e stavo arrivando lì, perché poi le grandi opere non le ha più toccate nessuno, un po' come Ciucci, un po' come adesso non voglio mettere assieme Ciucci con Incalza, lo dico chiaramente, dico un po' come altre vicende in cui c'è stata un contesto non edificante. Ecco, in cui c'è stata una continuità totale tra i governi di centrodestra e di centrosinistra. Questo sto dicendo, non sto paragonando Incalza a Ciucci, così almeno una querela la evitiamo. Are you with me? Are you with me? Oddio, delle volte è veramente difficile iniziare la settimana in questo paese, perché adesso vi racconto che cosa abbiamo scoperto recentemente, sempre sulla scuola di Austuni. La ditta che ha fatto i lavori, che sono costati il doppio di quanto preventivato, si chiama Palmiro Brocca di Lecce. Ok, allora, i colpevoli sono è la ditta Palmiro Brocca. No, perché la ditta ha fatto sapere poco fa che non si è occupata della soffittatura. Allora la domanda è: chi l'ha fatta la soffittatura? Assessore Pinna, la stiamo cercando, ce lo dica. Chi ha fatto la soffittatura? Oppure avete rifatto un'intera scuola senza mettere a posto il soffitto? No, chiedo. Allora, professor Ponti, andiamo con ordine. Da dove vuole partire? Dall'edilizia scolastica o dalle grandi opere? Scelga lei, perché ogni tanto anch'io mi sconforto. Il rapporto tra le due cose. Va bene. Cioè, mi sembra vistoso che c'è una priorità nelle manutenzioni rispetto alle grandi opere. Mm. Questo lo dice... Non è il buon cuore per i poveri bambini che gli crolla in testa il soffitto, che è un aspetto secondario, se mi consente la battuta, ma per un ragionamento strettamente economico. Noi abbiamo bisogno di creare tanta occupazione in breve tempo per ogni euro pubblico che spendiamo. Le grandi opere creano per ogni euro poca occupazione in tempi lunghi. Quindi mi sembra che fare manutenzione di qualsiasi tipo non ci siano dubbi ragionevoli dal punto di vista macroeconomico, oltre che funzionale, che è molto meglio e molto più urgente. Non so davvero quale altro argomento si possa usare, se non che metà delle grandi opere sono vistosamente inutili, ma questo, come dire, è un... No, guardi, io lo dico perché in ascolto, io e lei ci siamo scontrati molte volte sul famoso corridoio 5, la Torino-Lione. Lei è molto contrario, sì. Io no. Però questo non è il tema in questo momento. Un momento. Gliela sento male, però, professor, mi dica? C'è di molto peggio della Torino-Lione. Per esempio? La Milano-Genova. Costa il doppio, è altrettanto inutile. Questo è dichiarato dalle ferrovie, che è inutile, non è un'idea mia. Moretti ha dichiarato due volte in pubblico che non serve a niente. Sono già due linee, questo è il terzo valico. I treni merci non hanno bisogno di andare veloci e serve per i treni merci che vengono da Genova. Mi sembra che... e ci costa il doppio che non la Torino-Lione, quindi c'è un problema di priorità, se non altro. Il Brennero, per esempio, ha molto più traffico e quindi se c'è qualcosa da fare prima... Fate il raddoppio del Brennero. Cioè, allora, allora, lei dice... Visto che i soldi non ci sono per tutti... Allora, lei dice, da un certo punto... Allora, il primo aspetto è mettiamo una priorità in queste grandi opere. Secondo aspetto, però, tra le priorità privilegiamo le opere... piccole di manutenzione. Io voglio dire una cosa, la civiltà di un paese si vede anche da come tiene le cose che già ha. Non a caso nei paesi anglosassoni hanno una capacità di fare manutenzione di quello che già hanno che è invidiabile e incredibile. Da noi invece si lascia la cosa vecchia per fare quella nuova. È ovvio che dietro spesso ci sono interessi, tangenti, mazzette, corruzione. Ovvio non dovrebbe essere, ma immaginiamo che sia così. Però la manutenzione, al di là del fatto che la civiltà di un paese mantenere bene ciò che è pubblico, lo capissero anche molti italiani, in parte collocati nel sud del paese, in parte collocati nel nord. Però devo dire che uno gira l'Italia e si rende conto dove c'è un po' più rispetto per il pubblico e dove non gliene frega niente a nessuno del pubblico. E questo dice anche la diversa civiltà di questo paese. Detto questo, lei solleva un principio economico importantissimo. Le micro opere di edilizia, che siano manutenzione appunto di edilizia scolastica o quant'altro, hanno un effetto economico immediato, cioè la piccola impresa assume in loco, redistribuisce stipendi e quindi consumi in loco, mentre la grande opera, come lei sa, professore, ha tutte altre dinamiche. Quindi anche solo guardando non alla sicurezza dei nostri figli, ma all'effetto sul ciclo economico, la microopera, la piccola opera, ha ricadute molto più importanti, professor Ponti. Certo, perché per ogni euro, insomma, basta vedere un cantiere di una grande opera, vede tre persone, perché si dice sono opere estremamente capital intensive, cioè hanno il 75% dei costi che sono costi di capitale e solo il 25% sono costi di lavoro. Sono estremamente capital intensive. Pensi ai macchinari per scavare i tunnel, per esempio, che hanno un costo di capitale elevatissimo. Quindi anche in termini strettamente economici, per euro speso occupa molto più gente il tetto della scuola di Ostuni che la Torino, la Milano-Genova, che per euro speso non occupa proprio nessuno. No, non è difficile, non capisco perché il governo, che era ben partito col piano hashtag, quello che citavo prima, si sia arenato. Hashtag scuole nuove, hashtag scuole sicure, hashtag scuole belle. E non è detta ancora finita la storia. Io so che c'è una grande ebollizione sulle grandi opere, proprio quelle grandi. Non è detto che rimanga tutto invariato, ci sono buone speranze che ci sia una riflessione complessiva, che non vuol dire non farle, ma forse farle con logica un po' diversa. Sì, guardi, io se conosco un posto governo, dopo quello che è successo a Ustuni, secondo me rispuntano anche i soldi per... Fermo restando che quella scuola è crollata ed era appena stata reinaugurata. Mi fa dire una cosa però. Prego. Sui soldi, perché se ha notato è costata il doppio del previsto. Il doppio. Che quindi non sempre la quantità di soldi è la medicina giusta. Ah beh, a noi lo dice. Non so come dire. Adesso arrivo anche alle gare d'appalto. Droga negativa averci tanti soldi. L'importante è la responsabilizzazione dei soggetti, quello che diceva lei. Allora, la responsabilizzazione è fondamentale. Detto questo, e ricordiamo la cifra che lei ha appena citato, per un euro speso in una grande opera solo il 25% va alla forza lavoro, cioè genera poi consumi, occupazione e poi consumi. Perché? Pensate cosa vuol dire una scavatrice per i tunnel. Tu quei macchinari li compri spesso all'estero, che siano coreani, che siano tedeschi, non mi interessa. E il grosso dei soldi, quando il professor Ponti dice capital intensive, vuol dire che se ne va negli investimenti, che, nel capitale che mette negli investimenti. Rifare banalmente una scuola, un tetto o un'altra opera di microedilizia non richiede grandi macchinari, sono tutte cose già presenti nelle ditte che vincono l'appalto, e invece richiede in proporzione molto più manodopera, e quindi ne hai una ricaduta migliore, lo diciamo al governo. Le grandi opere sono belle da inaugurare. Oddio, anche se fa molto anni 60, fa molto anche fascismo, il taglio del nastro, così. Però, e magari uno vede un o magari dietro ci sono anche giri d'affari più interessanti, però servono molto meno per far ripartire l'economia. Le faccio invece adesso ascoltare che cosa ha dichiarato ieri nella trasmissione di Rai 3 Report un operaio, la voce è stata volutamente appunto resa irriconoscibile, sulla galleria La Franca, che uno può ribattezzare Farla Franca, perché è la galleria Foligno Civitanova, inaugurata, dovrebbe essere inaugurata nei prossimi mesi, e sarebbe stata costruita con uno spessore di cemento di 12-20 cm contro i 50-60 abituali. Faccio notare che a Capodanno è crollato il viadotto Scorciavacche sulla statale Palermo-Agrigento, inaugurato 7 giorni prima. Il 3 marzo è crollata la campata stradale del viadotto Italia sulla Salerno-Reggio Calabria, dove ha perso la vita anche un operaio rumeno di 25 anni. La parte crollata si è conficcata in uno dei piloni del viadotto, penetrandolo come se fosse burro, secondo chi è accorso, e quindi sollevando anche dubbi sulla qualità del cemento utilizzato. E il 10 aprile invece, appunto l'altro ieri, abbiamo diviso in due la Sicilia, tra Palermo e Catania ci si mette qualcosa come 5 ore in macchina, ormai è chiusa l'autostrada 19, è crollato praticamente il pilone al chilometro 61 tra gli svincoli di Scillato e Tremonzelli, tutte cose di cui poi l'ANAS dovrà rispondere. E il Ciucci ha annunciato le sue dimissioni, vabbè, ho capito, tanto il governo gli ha fatto capire che non era più aria. Ascoltiamo la testimonianza di Report di un operaio che parla della galleria La Franca sulla Foligno Civitanova. Questa è la galleria, così, no? L'arcatura. Qui, queste sono chiamate le spalle, questi due punti qua, che dove te devono tenere il cemento, devono tenere lo sforzo, qua cemento non ce n'è. Ci sono 10 centimetri, invece dovrebbero essere minimo 40-50 centimetri. Essendo che una zona sismica trema, si rompe, tristo chi passa sotto. Allora, a parte un paio di ascoltatori che continuano a insultare... vabbè, evidentemente avranno qualche interesse, forse abbiamo attaccato qualche loro interesse vista l'acidità che ci mettono. Professor Ponti, noi abbiamo già avuto un incontro abbastanza duro con Ciucci dopo aver denunciato alcune cose, e abbiamo anche scoperto come non è vero quanto ci disse che all'ANAS hanno anticipato le norme dell'anticorruzione applicando la regola della turnazione interna degli incarichi. Tant'è che Raffaele Cantone, il commissario anticorruzione, lo ha ufficialmente ripreso intimandogli di adeguare l'ANAS alla normativa, e ci sono, non so, personaggi come Beppe Scanni da 10 anni capo della relazione esterna, Mario Avagliano da 10 anni capo ufficio stampa, ma fin qua dici vabbè, chi se ne frega. No, perché c'è anche Cristina Basili, 10 anni nella segreteria affari societari, Raffaele Spota 6 anni ANAS in Umbria. C'è, cioè, tantissimi incarichi che sono lì da tanto tempo. E faccio notare che quello che emerge da, dalla denuncia di Report è stato confermato anche da un secondo operaio. Le cose che ho visto con i miei occhi, che la copertura del getto finale, secondo me, era povero, streaming zero, era poco. Poca copertura dello spessore del cemento, non c'era la copertura necessaria. Lì dovrebbe essere dai 50 ai 70 centimetri di spessore, invece a volte erano 12, 15, 18, 20. Infatti si vedono tutte crepe, il cemento quando ce n'è poco crepa. E poi l'Agrigento Caltanissetta, dove c'è una frana in corso da 10 anni, non era difficile, non bisognava essere dei gran geologi, ma sapete, dunque, i collaudi amministrativi, quindi su costi, fatture e quant'altro, li ha, sulla tratta Agrigento Caltanissetta, li ha coordinati Giuseppe Scanni, che è appunto responsabile delle relazioni esterne da oltre 10 anni dell'ANAS. Il regolamento dell'ANAS prevede, uno dice, ma uno che fa le relazioni esterne sa tanto di comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne, relazioni con gli organismi istituzionali, insomma, in realtà il regolamento dell'ANAS stabilisce che basti essere dirigente di qualunque ramo per effettuare i collaudi. E lui ha 60 addetti, un ufficio di pubbliche relazioni, l'attività di collaudo viene pagata a parte, e Scanni, 240.000 euro di stipendio, pure collaudo a parte. Gli sto chiesto a Ciucci, ma è normale che il capo delle relazioni esterne si metta a fare il collaudo amministrativo di un'opera infrastrutturale? La risposta di Ciucci: ha i requisiti per farlo, e quindi lo può fare. Ha i requisiti per collaudare amministrativamente un'opera, che vuol dire controllare che tutti i conti siano stati fatti bene. Sì, certo che sì, perché non può farlo. Viene da pensare come fa a fare il collaudatore. Lei può dubitare ciò che vuole, perché non sa. Ma voi l'avete assunto in ANAS per fare il capo delle relazioni esterne, a 240.000 euro l'anno. Ma cosa c'entra? Ma come, che cosa c'entra? Lui deve occuparsi delle relazioni esterne, non di fare i collaudi, giusto? Può benissimo svolgere l'attività anche per quel collaudo di carattere amministrativo. Lo può, in base alla legge e in base al regolamento interno di ANAS, e quindi ho ritenuto di poterlo nominare in quel ruolo. Vabbè, dai, io non so più cosa dire. Ok, ha neanche la capacità di ammettere che un capo della relazione esterna non può collaudare amministrativamente un'opera. Professor Ponti, mi sente? Sì, lo sento. Ecco, il commento lo lascio a lei, perché io non ho, oltre che far ascoltare tutte queste informazioni, questi fai, non ho altro da aggiungere. Prego, professore. Ma dunque, andrei molto piano nel sentire la voce degli operai, perché dipende moltissimo dalla struttura geologica del tunnel dove è scavato, che non so se sono perfettamente a coscienza. Ovviamente, se scava il tunnel nel granito, sono diverse le esigenze di copertura della volta in cemento, che può essere anche zero, rispetto se scava in un terreno sfuso. Quindi andrei molto cauto di questi atteggiamenti, francamente, che tendono a essere populistici. Occorre un interlocutore competente, non dice uno che ci vuole 10 centimetri e l'altro 40, perché così non si va molto lontano. E poi un'altra cosa che volevo aggiungere è che il problema delle strade sul piano della spesa è irrilevante, nel senso che, mentre il problema delle ferrovie è totalmente centrale, le ferrovie sono al 100% a carico dei contribuenti, cioè le paghiamo tutte noi le grandi opere, il Brennero, il Milano-Genova, il Torino-Lione, il Napoli-Bari, al 100% i contribuenti. Le autostrade, per male che vada, se la pagano il 60% gli utenti. Quindi non è paragonabile il problema delle autostrade rispetto al problema delle ferrovie. Le ferrovie, si immagini, non presentano nemmeno i piani finanziari, cioè non sono tenute nemmeno a dire costa 100 e in casa. Allora, io ho un'ultima domanda per lei, e cioè il tema degli appalti, che molti ascoltatori ci chiedono, ma non è che tutto questo sia nato con l'appalto al massimo ribasso, che da un lato noi vediamo, di cui vediamo benefici da un lato, dall'altro però rischia poi di avere le varianti in corso d'opera. Mi dia ancora qualche minuto che ho il GR24 e poi ci dica la sua opinione sull'appalto al massimo ribasso, sì o no, perché sembrava una buona norma, adesso viene messa in discussione anche questa. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, professor Ponti, domanda semplice finale, e la ringrazio anche per la disponibilità che ha dimostrato. Le gare al massimo ribasso, ossia, da un lato nascono storicamente dopo Tangentopoli, si dice, insomma, basta, andiamo su quello che riesce a offrire meno. La critica che viene fatta anche via mail, via sms, è la seguente: sì, ma in questo modo sono gare sostanzialmente in cui o vince l'offerta peggiore o peggio ancora si vince una gara al massimo ribasso e poi iniziano le varianti, per cui alla fine cosa hai fatto? Hai escluso magari i concorrenti che offrivano qualcosa in più ma erano più seri, per poi avere un'opera che costa il doppio di quanto previsto perché tu in corso d'opera fai le varianti. Come se ne esce? Non ci sono bacchette magiche per uscirne. Occorre innanzitutto che il progetto sia definito molto bene, che quindi i suoi costi prima di metterlo in gara siano definiti con cura. Si chiama standard NATO, se si vuole, era uno dei modelli che si usavano una volta. Poi occorre un occhio molto vigile sulle varianti e sulla revisione prezzi, che sono due modi per gonfiare i costi. Quindi è il contesto complessivo che deve essere reso meno, come dire, amichevole tra la stazione appaltante e i gareggiatori. Ci vuole sempre un controllo terzo, da qui il problema che riguarda tutto il settore e non solo in Italia, che è un settore che tende a essere poco competitivo perché bisogna comprare quasi tutto in loco. Questo non può essere dimenticato. Mentre una biro o un tablet, se faccio una gara per una fornitura pubblica, la posso comprare dove voglio e c'è vera concorrenza. Se devo fare una strada in quel posto, tutti gli inerti, le macchine in movimento terra e probabilmente anche gran parte del cemento, devo comprarli in loco. Questo crea una situazione di insufficiente competizione e spesso di alleanza tra politico e malaffare, proprio perché le imprese poi finiscono ad essere sempre quelle che si ruotano. Però mi scusi, professore, non ci sono bacchette magiche, però mi scrive un ascoltatore giustamente: ma all'estero come fanno? Perché qua il problema non è la tangente o la bustarella, nel senso che, parliamoci chiaro, anche in altri paesi esiste un tasso di corruzione nelle opere, ma le opere vengono fatte bene, i costi non triplicano, duplicano, quadruplicano, i tempi vengono rispettati e voglio dire, poi io non so, non penso che magari in Francia, in Spagna, giusto per citare due paesi latini, sia sempre tutto trasparente, ma è chiaro che il meccanismo funziona meglio. Allora, meglio, questo non c'è dubbio. In Spagna non tanto meglio, però. La Spagna ha una tradizione di opere inutili, di extra costi, di corruzione, che è una buona gara con l'Italia. Diverso è la Francia e la Germania, cioè un pochino bisogna distinguere. Comunque i mali dell'industria del cemento non sono solo italiani, perché questo troppo stretto rapporto tra committente e fornitori c'è anche all'estero. Meno grave che in Italia. In Italia è particolarmente grave. Ma su questo vorrei dire, è molto peggio la gonfiatura della progettazione, cioè le opere inutili, che non la corruzione. Se vuole un esempio numerico, il Sole 24 Ore, fonte non sospetta direi, ha detto che la Milano-Torino ad alta velocità è costata 4 volte quello che sarebbe costato un tratto in pianura fatto in Francia con le stesse caratteristiche. Che non è che la tangente ha fatto costare 4 volte, ma gli standard di progettazione. È stata fatta una serie di sovrappassi di opere, è stata gonfiata e sa che è deserta quell'infrastruttura? No, lo so, basta andare sulla Milano-Torino e vedere cosa sono gli svincoli autostradali, che manco a Los Angeles. Però lì ci fu un'accusa anche dello stesso Moretti, che disse furono poi gli enti locali, c'era di mezzo il gruppo Gavi, furono varie inchieste anche giornalistiche, insomma. Però insomma, non mi sembra molto fiducioso sul fatto che si possa trovare un modo per arrivare delle gare d'appalto. Non fare opere inutili. La Milano-Torino è un'opera inutile, ci passano 40 treni su una capacità di 330. Vabbè, adesso vedremo quando faranno anche la Venezia Milano. Però ho capito, lei dice intanto sulle opere, le opere inutili sono le opere inutili sono il primo spreco. Ma poi una volta che io decido di fare un'opera, che mi serve? Come faccio a evitare da un lato che la gara al massimo ribasso favorisca chi poi vuole fare il furbo o il corrotto, e dall'altro però a non bandire gare in cui sostanzialmente non tengo sotto controllo i costi? Intanto devo fare la gara, e per le grandi opere ferroviarie ricordo che non sono state fatte nemmeno le gare, sono state date per affidamento diretto, compreso la Milano Genova, 2 giorni prima che scadesse l'obbligo europeo di fare le gare. Quindi la prima cosa è che almeno le grandi opere abbiano un sistema di gare di standard europeo. Invece in Italia siamo riusciti a non fare nemmeno le gare. E quando le gare ci sono? Quando le gare ci sono, l'ho detto, occorre, va bene il massimo ribasso, ma devo evitare le offerte anomale e devo evitare le revisioni in corso d'opera del progetto e le revisioni prezzi, cioè devo avere un sistema più blindato con una qualità di progettazione da subito molto maggiore. Invece lasciato tutto nel vago, e questo ovviamente favorisce comportamenti collusivi o fa bene Ciucci a dimettersi, ma fa bene non dovrebbe darsi la liquidazione da solo, però quello l'abbiamo parlato, guarda, ne abbiamo parlato con lo stesso Ciucci, però dico, e a difendere il fatto che il responsabile delle azioni esterne, siccome è un dirigente per l'ANAS, può fare il collaudo amministrativo, cioè è un problema di quanto stanno questi dirigenti nei ruoli. No, ma è anche un conflitto di interessi, dovrebbe essere terzo, i meccanismi dovrebbero essere più terzi possibili. Noi invece abbiamo una tradizione che sono tutti troppo amici, e quindi il concetto della terzietà e del conflitto di interessi alberga pochissimo qui. Gli studi di fattibilità sono fatti dai stessi soggetti che sono interessati a dire di sì all'opera, quindi si immagini la serietà degli studi di fattibilità economico-finanziari fatti dalle ferrovie per le opere ferroviarie o dalle autostrade per le opere autostradali, non sta in Cervitera. La prima cosa è la terzietà, la cultura della terzietà. Grazie al professor Marco Ponti, che insegna economia dei trasporti al Politecnico di Milano. L'ho usata più lungo del previsto, ma mi è sembrato più che utile. Grazie professore. Immagini. Oh, la borsa, adesso però parliamo anche del DEF. Per quello che riguarda la borsa, più 0,55%, Parigi più 0,26%, Francoforte meno 0,30%, Londra meno 0,36%, l'America è invariata, l'euro a quota 1,05%. Tra i titoli segnaliamo, oltre al fatto che Milano ha rivisto la soglia dei 24.000 punti, un livello che non toccava l'indice FTSE MIB dal 2009, in luce UX più 5,56%, il giudizio positivo di una banca d'affari francese, e poi Mediolanum più 3,30%, Saipem di nuovo sulle voci di una possibile uscita dal gruppo Eni, e dopo l'operazione Shell su British Gas, di cui a lungo abbiamo parlato, continuano le ipotesi su un risico nel mondo energetico. Ancora A2A, piano industriale molto ambizioso anche sul dividendo annunciato nel finale della settimana scorsa, continua a beneficiare nel titolo, più 2,55%, Telecom più 2,1%, Moncler più 2%, Terna più 1,70%, Azimut più 1,50% come Steam Microelectronics ed Enel, Snam più 1,40% come Pop Milano. Fronte opposto, tra l'altro, su Telecom resta l'ipotesi della quotazione delle torri di telecomunicazione. Fronte opposto, Monte dei Paschi meno 2,34%, è emerso che la banca è troppo esposta verso Nomura, ma va. CNH meno 0,80%, segnalo come titoli, tra i titoli minori, il peggiore è Neurosoft meno 4,70%. E poi Pininfarina meno 4%, Sol meno 3,30%, il migliore Rai Communication 29% Viurai Communication 29% di rialzo, Mono TV più 23, Bion più 15 e Molmed più 13,80. Allora, a chi dice che questo gruppo, questa radio è troppo prona al governo Renzi, io lo invito a leggersi sulle 24 ore di sabato scorso, dove nel caso specifico i colleghi Pogliotti, Tucci e Forché mettono in evidenza una cosa che ha del paradossale, sembra di essere tra Bertolt Brecht e Ionesco, e cioè la norma che riguarda la decontribuzione. Siamo in collegamento con Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore. Fabrizio, buonasera. Ciao, buonasera a tutti. Non parlerò di appalti, anche se una cosa te la devo chiedere prima del traffico e poi ti lascio raccontare cosa avete scoperto e cosa ha detto oggi il ministro Poletti. Ma avete capito se i 500 milioni sull'edilizia scolastica sono scomparsi dal DEF o no? Perché io onestamente non se ne sa nulla? No, però una cosa è certa, che il piano di edilizia scolastica è rimasto un grande obiettivo del presidente Renzi, annunciato come primo obiettivo, ma è assolutamente rimasto al palo. Oggi è crollata il soffitto di quella scuola, poteva non crollare, non è quello il problema. Tra l'altro lì erano stati fatti i lavori, però domani su Sole 24 Ore usciamo su un'inchiesta che fa vedere come sull'edilizia scolastica è stato fatto davvero molto poco. Più che rimasto al palo, direi rimasto all'hashtag, perché era hashtag scuole nuove, hashtag scuole sicure, hashtag scuole belle. Grazie Graziella. Allora, grazie Graziella, grazie all'hashtag. Fabrizio Forché, voi avete scoperto su Sole 24 Ore che sostanzialmente i fondi per le decontribuzioni, e cioè quelli che servono per le imprese che dal 1 gennaio al 30 dicembre assumono un lavoratore a tempo indeterminato, nulla c'entra il Jobs Act, e non pagheranno per questo lavoratore i contributi per 3 anni perché li paga lo Stato, ecco, questi fondi, se si dovessero rivelare insufficienti, verrebbero coperti da un aumento dei contributi previdenziali a carico delle aziende, immagino dagli altri lavoratori. È venuto fuori un caos e Poletti ha risposto. Prego Fabrizio. Ma tu citi Ionesco perché sei molto più colto, diciamo, di noi, ma noi abbiamo citato più banalmente Crozza, ma insomma effettivamente è un modo di legiferare piuttosto paradossale. E tu prevedi con una mano la decontribuzione per le aziende che stabilizzano, una cosa sacrosanta, zero contributi su chi fa nuovi contratti a tempo indeterminato, una misura positiva che speriamo che porti effettivamente nuovi contratti nei prossimi mesi. Dall'altra però poi per trovare la copertura ricordi a un aumento generalizzato dei contributi su tutte le aziende. Ora è vero che viene messa come clausola di garanzia, quindi come ipotesi residuale, nel caso in cui la misura tira molto, cioè ha molto successo, scatta questa clausola di garanzia. Però che vuol dire? Che dobbiamo augurarci che la misura non funziona? E se la misura funziona, allora per coprirla dobbiamo ricorrere a un aumento di quei contributi che dall'altra parte diciamo di ridurre. Insomma, evidentemente l'effetto paradossale c'è tutto. È stato un errore di un tecnico? Io non credo che in un decreto legislativo una norma di copertura di questo genere possa entrare senza un avallo politico. Questo decreto è stato fermo alla ragioneria per un mese perché non si trovava la copertura e non si trovava una soluzione su questo punto. Alla fine si è trovata questa soluzione. Immagino l'abbia proposta un tecnico, ma immagino ci sia stato un politico che l'abbia avallato. Guarda, Poletti si è preso ogni responsabilità. Ascoltiamo che cosa ha detto, però dicendo che a questo punto smonterà questa norma assurda perché è una situazione catch 22, come dicono gli inglesi. Ionesco, Brecht, Crozza, uno può andare nel Pantheon che vuole. Poletti che dice che se dopo quello che ha scoperto il Sole la norma sarà smontata. La responsabilità è la mia, perché quando dal Ministero esce un documento la responsabilità è del Ministro e quindi la responsabilità è la mia. Una clausola di salvaguardia è una clausola che viene normalmente introdotta nelle norme. Pensate che stiamo discutendo un documento di economia e finanza che deve smontare una clausola di salvaguardia che vale 16 miliardi con l'aumento dell'IVA e che noi smonteremo. Ma la clausola di salvaguardia serve quando sei di fronte ad una previsione incerta. La previsione delle conversioni dei CoCoPro è una previsione incerta e si è introdotto questo meccanismo, che io credo sia un meccanismo non necessario, perché la quantità di risorse che abbiamo messo a sostegno del bonus sono, io credo, largamente abbondanti rispetto al bisogno. In ogni caso, questa clausola di salvaguardia valeva 16 milioni di euro, ne smontiamo una da 16 miliardi, figuriamoci se non siamo in grado di eliminarne una da 16 milioni. Quindi la toglieremo, perché così evitiamo discussioni in questo senso e siamo tutti tranquilli. Ma credo che in ogni caso non sarebbe stata necessaria. Vabbè, 16 milioni sono pochi, ma il paradosso restava tutto. A questo proposito, però, Fabrizio Forché, visto che il ministro Poletti citava come stanno smontando il rischio, i 16 miliardi, quindi le clausole che scattano in automatico dal 1 gennaio 2016, il governo non taglia, non trova le risorse, scattano in automatico, vuol dire che aumenta l'IVA in automatico e qualche accisa. Secondo te, con questa difficoltà nel reperire le risorse, perché io ho visto 10 miliardi di spending review, di cui parte a carico di comuni e regioni, parte, insomma, speranze di risparmiare, che senso ha parlare di un tesoretto? Cioè, è come se io ti dovessi dei soldi, stessi cercando dei soldi, e poi dico improvvisamente, però ti devo 16.000 euro e poi però non so cosa fare con 2.000 euro che trovo per caso sotto il materasso. Ma io saprei cosa fare, li integrerei a quei 16 che devo darti, o sbaglio, sono un po' troppo massaia? No, non sbagli, veramente qui di paradosso in paradosso. Poi mi devi dire chi è tra gli ascoltatori che ha detto che noi, siccome giornale, siamo, diciamo, a favore. No, me lo scrivono, non ti preoccupare, mi scrivono gli ascoltatori che ormai sono renziano e che col gruppo è renziano. Vabbè, quindi ce l'hanno con te in particolare. Sì, no, certo, con questo sempre, a prescindere, diciamo. No, perché noi effettivamente sul giornale continuiamo a fare un lavoro molto molto molto puntuale nell'evidenziare, diciamo, le incongruenze delle attività di tutti i governi e anche di questo governo. Si chiama fact-checking, certo. Fact-checking si chiama tradizione del Sole 24 Ore, che fa questo con tutti i governi da sempre. Questo governo sta facendo molte cose buone, sta facendo riforme che altri governi non hanno fatto. Questo governo però va stigmatizzato lì dove fa delle cose sbagliate. Parlare di un bonus di 1.600.000.000 quando tu hai una clausola di salvaguardia da dover coprire, cioè parti da meno 16 miliardi e dall'altra parte pretendi di avere un bonus da 1,6 miliardi, è evidentemente anche questo paradossale. Tra l'altro la stima del bonus di 1,6 miliardi arriva da semplicemente dal fatto che tu prevedi, fai una stima di crescita del PIL per quest'anno che ti porta effettivamente al tendenziale del deficit a 2,5 quando tu hai come obiettivo il 2,6. Allora il governo dice: io mi prendo questo margine 0,1, tanto comunque avevo detto che arrivavo al 2,6, sì, certo, che arriverò al 2,6, ma questo dipende da una stima di crescita del PIL che il governo fa, che ha fatto il governo ora col DEF, ma tu devi vedere a consuntivo quanto effettivamente hai fatto col PIL. Allora nel momento in cui a consuntivo hai fatto un determinato PIL e quindi hai fatto un determinato deficit, magari ti si è liberato. Magari facciamolo 0,9 e il tesoretto non è più di 1,6 ma è di 2,6. Problema. Oppure magari appunto fai lo 0,4 come sempre poi si è verificato in questi anni, perché poi il governo dice: io ho fatto una stima prudenziale, però io sono 15 anni che assisto a stime prudenziali quando siamo a marzo e a fine anno queste stime prudenziali sono il PIL e la metà della stima prudenziale. Allora no, c'è uno che ascoltatore che scrive fact checking invece che fact checking, però questa non la posso tradurre perché il programma si chiama Focus Economia. E vabbè, per chi capisce l'inglese capisce, la lasciamo alla zanzara, lascio alla zanzara la traduzione di fact checking. Detto questo, siamo d'accordo, le stime sono sempre prudenziali verso l'alto, non ha senso creare ancora più confusione immaginando che possano essere sgravi a favore del meno ambiente se non è ancora chiuso il tema del tesoretto. E poi posso dire una cosa, così mettiamo la parola fine a questo tema, Fabrizio: parlare di tesoretto porta sfiga, deve capirlo anche Renzi, cioè tutti i governi che hanno tirato fuori, fu Prodi il primo se non ricordo male, il tesoretto nasce come termine durante Tangentopoli, figurate un po', però tutti quelli che hanno parlato di tesoretto hanno avuto sfiga su questo tema, quindi lasciamo stare il tesoretto, andiamo sulle coperture, quelle già dovute, obbligatorie. Poi, se a fine anno cresceremo più del previsto e quindi il deficit è inferiore all'attesa perché il PIL è cresciuto di più, alla spending funziona ancora meglio perché non c'è più Cottarelli. Va bene, allora sì, parleremo di tesoretto. Grazie a Fabrizio Forché, vice direttore del Sole 24 Ore, e da Sebastiano Barisoni è veramente tutto. Vi lascio appunto alla Zanzara. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.